Mix 24 di Giovanni Minoli. Buongiorno, bentrovati su Mix 24. Tra poco, come ogni venerdì, vi racconteremo la storia dei nostri anni anche attraverso la musica. Oggi torniamo nel 1996. In quell'anno Pippo Baudo conduceva il suo quinto festival di Sanremo consecutivo. E allora ascoltiamo il racconto del ritorno di Pippo Baudo in Rai dopo la crisi e la rottura con l'azienda. Ecco, comunque, tutto è bene quello che finisce, certo. Bene oppure no? Certo, certo. Ma intanto è finita bene? Secondo me sì, è finita bene, perché volevo ritornare a lavorare in Rai e i presupposti ci sono. Ecco, voglio dire, ma il rientro, un rientro trionfale oppure no? No, trionfale no. Diciamo... Esattamente cosa prevede questo? No, prevedo delle difficoltà, dovrò conquistarmi le posizioni che spero di conquistare, non sarà tutto facile, non ci saranno tappeti bianchi, rose, lanci. Ecco, ma la paura, invece la paura che finisse male, cioè di non riuscire ce l'ho avuta, a ritornare. Tanta. Verso metà di quest'anno, cioè dell'anno scorso, sì. Anzi. Ho avuto la sensazione che le cose si mettessero proprio male, insomma, che non ci fosse più possibilità di rientro. E l'angoscia è stata forte? L'angoscia c'era, non dormivo, insomma, mi disperavo, perché amo questo mestiere. Ecco, quindi... Ma qual è stato il momento più difficile? Proprio... Il momento più difficile è quando questo muro di gomma, che il palazzo ti respingeva, non riuscivi ad entrare, insomma, quando questo palazzo kafkiano diventava impenetrabile. Comunque la caduta c'è stata in qualche modo, oggi inizia una nuova fase, l'abbiamo detto. Ecco, ma in questi mesi la paura di essere uscito definitivamente di scena, non solo di non entrare, ma che fosse passato il momento Baudo. Dunque, io ho fatto delle riflessioni, perché chiaro, poi quando non hai nient'altro a cui pensare, pensi soltanto a quello e diventa, certo, un tormento. Io per un certo momento ho creduto di smettere. Ho detto, ormai questa bella favola che è durata 28 anni, io, certo, ho fatto di tutto, certo, per un presentatore, certo, ho fatto il massimo. Certo. E forse è il momento di chiudere. Avevo già fatto i miei programmi, i miei progetti. Vendo questo, certo, vendo quest'altro, mi ritiro in campagna, mi metto a leggere, insomma. Ci ho pensato seriamente. Sì. Senta, comunque, figlio del prodigo, no, adesso in Rai è tornato. 2 anni fa, qui a Mixer, mi disse che per la sua carriera lei non doveva dire grazie a nessuno. Ecco, adesso per il suo rientro invece deve dire grazie a qualcuno? No, no, secondo me ho chiesto, sarebbe ridicolo e falso negare, ho chiesto qualche intervento, però mi era dovuto, perché la mia professione, 28 anni di lavoro onesto, meritavano questo rientro. Ecco, ma qualche intervento a chi ha chiesto? Ho chiesto intervento ad amici che potevano avvicinare il palazzo. Ma insomma, questo è un linguaggio criptico. Cioè, voglio dire, suo essere amico di De Mita, per esempio, le è servito o no in questo rientro? Per parlare chiaro, farci capire. Pensavo che mi servisse moltissimo, ma in effetti mica tanto. Ah no, Accettare l'idea, scoprire che Domenica Inn, Fantastico, Sanremo vivevano benissimo senza di lei. Ma vede, sono queste... L'ha spaventata o no? No, non mi ha spaventato, però ognuno conduce questi programmi in maniera personale, con la no, ma c'è stato un momento in cui si pensava che non avrebbero che potuto più esistere. Ma non è vero, assolutamente. No, ma voglio dire, lei l'aveva pensato. Io non l'ho pensato. Sinceramente non l'ho pensato. Senta, ma è cambiato qualcosa nello star system della televisione oggi, secondo me? Probabilmente sì, qualche cosa è cambiato, però il teledivo ci sarà sempre, sai? Perché? Perché ci sono 25 milioni di telespettatori che tutte le sere vedono la televisione, perché il mediatore televisivo diventa un amico di casa, e il tipo di divismo che diverte. Non è quello degli anni 50, del divo cinematografico. Il divo televisivo è più casalingo, più popolare, più casalingo, ha contorni, diciamo, più umani, più terra a terra. Ecco, senta, lei è abituato a varietà super miliardari, riuscirà a avere successo in Rai adesso, un momento in cui i soldi sono meno e il progetto è diverso? Con 150 lire. Cercheremo di farli con 150 lire. Ecco, senta, le faccio un'ultima domanda. Ma secondo lei l'affare l'ha fatto lei o l'ha fatto la Rai? Per prendermi alle condizioni che ho accettato, l'ha fatto la Rai. E anche Baudo. Ma il 1996, tra storia e musica, arriverà tra poco insieme a Franco Schipani. Intanto mi lascio in compagnia di Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Thank God it's... Buongiorno Cravetto. Buongiorno Fiori. Cravetto, ma secondo te che festival è senza Baudo? C'è un festival? Beh, in questi giorni c'è quello di Conti. Però tornando indietro, a me quello che era piaciuto di più era quello condotto da Vianello con la Pivetti e l'Erzigova, ti ricordi? Che cosa ne pensa Sandra di lei al festival? Cos'è? Molto bene, molto bene. Molto bene. E dirò che mi ha anche aiutato molto. Ah, sì. In che modo? Come? E mi ha dato dei consigli sulla scelta delle partners. Ah. Ha detto no alla Schiffer, ha detto no alla Campbell, ha detto no alla Bruni. E a me ha detto sì. Sì, no, di te non gliel'ho detto. Detto sì. Di te non gliel'ho detto proprio. Ah. Ho capito, ma di me cosa ha detto? Ah, di lei ha detto che subito sì, ha detto che andava benissimo, ce ne fossero di venti, ha detto. Grazie Sandra, grazie. Grazie. Pessimo, pessimo. Era stupendo. Era stupendo. 1998, Cravetto. Sì. Pensa alla puntata finale, share oltre il 62%. Adesso cantano vittoria col 50%. Eh sì. Vedremo. Eh sì. Però ci sono delle analogie tra i due festival. Tipo? Beh, per esempio, la Erzigova è un po' come la De Filippi. In che senso? Che sono bionde. Esatto. Che sono vestite di nero. Nero. Che hanno lo stesso stacco di gambe, sì, più o meno, sì. Sì. Ma se a Raimondo Vianello gliel'aveva consigliata Sandra l'Erzigova, sì. Ma a Conti, la De Filippi, chi gliel'ha consigliata? Ma no, dai, il buon senso. Era l'unica che andava gratis. Senti, lo dice anche Crozza, senti qua. Ma se tu pensi che addirittura Maria, tu lavori gratis, Maria non ha nemmeno voluto un voucher di Poletti. Ragazzi, io ve lo dico subito, io sono di Genova. Col cazzo che lavoro gratis, no, ve lo dico. Beh, finissimo, è delicatissimo. Comunque è venuto fuori dai giornali che Crozza non è l'unico genovese, perché non so se hai visto, sì. Santoro, sì? 2,7 milioni, ma è genovese? È genovesa, ah, okay. Come Vespa, 1,3 milioni, e anche la Clerici. La Clerici, pensa che pensavo fosse piemontese, io invece no. No, no. Ho letto comunque, prende 3 milioni, ma... per stare in cucina alla fine. Tesoro, scusa, ma tu perché? Quanto vorresti per stare in cucina? Beh, io non lo so, però se lo sa la mia tata che prendono queste cifre, sono finita. Cravetto, la tua tata per stare a casa tua ne meriterebbe anche il doppio. Beh, allora, facciamo così. Se la pagassero gli italiani con il canone in bolletta, sai che c'è? Che mi andrebbe benissimo. Andrea Muratori è un giovane cronista spedito per equivoco in un paese del Centro America dilaniato dalla guerra civile. Potrebbe essere l'occasione di realizzare l'ideale romantico dell'inviato speciale, ma una volta lì scopre che i suoi veterani colleghi passano le giornate a bordo piscina in un albergo di lusso, preoccupati soltanto di fare la cresta alla nota spese e spararle più grosse della concorrenza. Andrea è il protagonista di Scoop di Enrico Franceschini, che da oltre 30 anni è corrispondente dall'estero per La Repubblica. Ecco Enrico, quanto c'è di vero in questo ritratto del giornalismo? Ma c'è abbastanza, perché è una storia in parte autobiografica. Avevo 25 anni, facevo il freelance a New York per un'agenzia di piccoli quotidiani e per l'Espresso, mi mandarono per 2 mesi in Centro America e il pivello che si ritrova lì per un equivoco, in un certo senso sono io che fa la conoscenza con la guerra di colpo e con i grandi inviati. E questi erano i grandi inviati anche. Tu scrivi che i lettori sarebbero sorpresi se sapessero quanto lontano dalla guerra può stare un corrispondente di guerra. Perché? Ma intanto è una frase che è attribuita a un giornalista, a un protagonista del mio romanzo, è riferita ai primi anni Ottanta. Le cose sono cambiate perché la rivoluzione digitale le ha cambiate, ma allora era vero e in parte rimane vero, nel senso che il giornalista non ha sempre bisogno di stare in prima linea, il fotografo, il cameraman sì, il giornalista può anche guardare la guerra da una collina distante o in qualche caso nella commedia che poi diventa un dramma, che è il mio Scoop, cioè il mio romanzo, magari dal bordo di una piscina. Scoop, come hai appena detto, è anche un romanzo sulla carta stampata prima della rivoluzione digitale. E i tempi della carta stampata sono finiti. Cosa vuol dire? Ma l'abbiamo davanti agli occhi, sempre meno la gente compra giornali di carta, ma paradossalmente i giornali hanno sempre più lettori attraverso i loro siti. Quindi possiamo immaginare che un giorno forse il quotidiano di carta finirà, ma non finirà il giornalismo, non finirà il lavoro di chi deve informare su quello che succede nel mondo. Ma oggi che le notizie arrivano alla velocità della luce e invecchiano alla stessa velocità, ha ancora senso quella frenesia per poi poter dire quella notizia l'ho data prima io? Ha ancora senso, ma fino a un certo punto, nel senso che conta sicuramente lo scoop, anche se io poi in vita mia ne ho fatti soltanto due, perché lo scoop è una cosa rara. Uno lo racconto nel romanzo, un altro l'ho fatto a Mosca durante il golpe per reinstaurare il comunismo, ma quello che importa è soprattutto la spiegazione dei fatti, l'analisi, l'approfondimento, perché le notizie sembra che le sappiamo tutte, però attenzione, nell'era della post-verità spacciata da alcuni è anche importante che i giornali aiutino a capire quali sono le notizie credibili e quali quelle incredibili o false. Quindi oggi, oltre alla velocità, approfondimento. Approfondimento e qualità. Per questo io dico contano le aziende di informazione serie. Il mio romanzo Scoop è una commedia che però a un certo punto fa vedere già anche 30 anni fa quant'è importante avere un giornalista professionista. Io dico sempre, quando uno ha male ai denti non è che scende in strada e la prima persona che passa gli chiede di curarseli, di curarli, li va dal dentista, e lo stesso penso che valga anche per l'informazione. Enrico Franceschini, l'abbiamo detto, tu sei corrispondente dall'estero da oltre 30 anni, ma qual è la differenza più grande tra il giornalismo italiano e quello anglosassone? Ma oggi per la verità si assomigliano sempre di più, proprio perché la globalizzazione è arrivata anche nei giornali, è arrivata anche nell'informazione. Una volta era che il giornalismo italiano dava per scontato magari i fatti e cercava soprattutto di avere una bella forma, mentre il giornalismo americano era più attento a spiegare per filo e per segno tutto quanto. Ma io direi che tutti e due, il giornalismo italiano e il giornalismo anglosassone, hanno oggi lo stesso passo, proprio perché l'abbiamo, il mondo dell'informazione è uno, così come è un mondo solo quello in cui viviamo. Senti, ma a proposito di bella forma, quanto narcisismo c'è nei giornalisti secondo te? È uno degli aspetti del mio romanzo anche questo, cioè può essere politicamente scorretto dirlo, ma è una missione da fare. Uno fa il giornalista anche per la vanità di vedere il proprio nome sul giornale o su un sito, e per l'adrenalina che ti dà andare in giro a raccontare quello che accade. Quindi sicuramente c'è anche un elemento di questo. Ma oggi che si sta tutti chiusi nelle redazioni, questa adrenalina dell'andare in giro dove si trova? Nel web, nell'apparire in televisione, dove? È difficile avere passione se stai solo sempre davanti a un computer, bisogna cercare di ricavare un po' di spazio per vedere la realtà di fuori, perché non solo perché è quella che ti eccita, ma perché quel 5% che non arriva dal web fa la differenza e dà la cosa in più che vale la pena di comprare un giornale per quello, vale la pena abbonarsi a un sito per quella ragione, altrimenti siamo tutti omologati e riceviamo tutti le stesse tipi di informazioni. Senti, nel tuo romanzo Scoop, un vecchio saggio del giornalismo dice che il giornalismo resta comunque il più grande divertimento che puoi avere con i calzoni addosso. È ancora così per te? Per me è ancora così. Sono stato molto fortunato e questa frase ce l'ho messa apposta per dare l'idea che questo è un mestiere che bisognerebbe fare divertendosi, anche in maniera un po' scanzonata, senza prendersi troppo sul serio, e soprattutto rendendosi conto che anche se sembra un mestiere un po' pazzo e tutte le sere bisogna fare una corsa per produrre un giornale che va in edicola, è un mestiere che ti dà una vita meravigliosa, e proprio per questo è un grande divertimento. Ma oggi che consiglio daresti a un giovane che volesse fare il giornalista? Gli consiglierei di fare quello che ho fatto io 35 anni fa, quando sono andato a New York senza un contratto, senza sapere quasi neanche l'inglese, ma con una differenza: non andare a New York, perché è già troppo piena di collaboratori e di freelance, e non andare in un paese senza sapere la lingua. Gli consiglierei di imparare il cinese, di imparare l'arabo, di andare in qualche capitale del mondo dove non ci sono giornalisti italiani, e poi provare a offrirsi sul mercato. Io penso che qualcuno che vuole comprare i suoi articoli lo troverebbe. Grazie Enrico Franceschini, Scoop, Feltrinelli. Fior Mori, ma a me mi cade un mito, cioè ho sempre sognato di incontrare il corrispondente di guerra, quello che arrivava con la sciarpa, l'uomo vero, la giacca sporca di sabbia, l'uomo vero, sì? E invece se ne stanno tutti lì a bordo officina a far niente di base. Ma ti devi trovare un cameraman allora. Dici che loro sono sul pezzo invece? Beh, comunque guarda, sono per forza sul posto. E comunque messa così, a bordo piscina, io mi ci vedo benissimo come corrispondente di guerra. Anch'io ti ci vedrei benissimo, perché ti vedrei tutta vestita di beige, chicchissima. Sì. E invece a proposito di chic, non per tornare al discorso di prima, però secondo me questo festival qui non è chic per niente, non trovi? Beh, la De Filippi ha scelto un po', diciamo, noir, un po' poco. Un po' understatement, un po' depresso. Ecco, si è detta vedo nero. Molto, molto nero. D'altra parte, torniamo sempre al punto, scusami, lo fa gratis, la vuoi pure criticare? No. Hai ragione. Allora, restiamo al festival, ma dietro le quinte del festival. Oh, questi giovani d'oggi valgono poco, gli anziani cosa ci hanno lasciato? Nico Verienti, salentino, 33 anni, è un cantautore e ha scritto canzoni per Venditti, Emma, Francesco Renga, e in questi giorni il suo brano Nessun posto è casa mia è a Sanremo, cantato da Chiara. Nico, buongiorno, com'è andata l'altra sera a Sanremo con Chiara? Buongiorno a tutti voi, è stata una serata, come puoi immaginare, piena di adrenalina. Ero un po' in ansia, chiaramente, per un autore avere un brano a Sanremo è un'emozione veramente, veramente forte. Sei soddisfatto di come l'ha interpretata? Moltissimo, ha dato un'interpretazione poetica. Chiara, in questo brano qui è veramente un valore aggiunto. Mi ritengo fortunato di averla incontrata artisticamente. E com'è nata la canzone Nessun posto è casa mia? Io volevo riflettere sul distacco, sull'idea e il desiderio di tornare a casa, dove casa, diciamo, ha anche un po' un valore metaforico, perché non solo sono i posti, ma anche le persone, gli affetti che ci fanno stare bene. Poi io sono un fuorisede da tanti anni, vivo a Roma, ma il desiderio di tornare a casa dei miei affetti in Salento è sempre forte, quindi da questa idea qui il brano, insomma, è un po' nato, ecco. Com'è nata la collaborazione con Chiara? Ce l'avevi già scritta pensando che sarebbe potuta essere lei l'interprete oppure no? Ho incontrato Chiara nel 2014, avevamo già lavorato insieme al disco precedente, le avevo affidato un'altra canzone ed ero rimasto sorpreso dalla sua interpretazione, così siamo rimasti in contatto. Questo brano è nato semplicemente perché eravamo ispirati, avevamo voglia di raccontare questa storia. Appena finito di scriverla ho pensato subito che poteva incontrare, diciamo, la sua sensibilità, e così è stato. Lei è rimasta, diciamo, commossa e convinta sin da subito, e poi è stato bello trovare anche l'approvazione di Mauro Pagani, che è il produttore di questo, certo, progetto, storia della musica italiana, quindi per me è un grande onore. È stata una catena di sì, e per ultimo quello di Carlo Conti, che è stato poi forse il più bello, perché c'è stata la possibilità di portare questa canzone in questa vetrina pazzesca che è il festival. Nico, tu scrivi canzoni da sempre, ti ricordi qual è la prima canzone che hai scritto e come è andata? La primissima canzone che ho scritto si intitolava Camilla chiamami adesso, ed era una canzone dedicata ad una mia amica che mi telefonava sempre e soltanto quando io non potevo rispondere al telefono. Una storia che è ancora attuale e fa parte di tutti noi, perché in rubrica abbiamo, probabilmente, non lo so, per me potrebbe essere tuttora, è mia mamma quella che mi chiama sempre quando nel momento peggiore. Esatto, era un elenco dei momenti peggiori questo brano. È stato un inizio, io ero un po' incosciente, però devo dire è stato un inizio divertente. E com'è andata quella canzone? È andata bene, che il primo pezzo che ho scritto sono riuscito a strappare un contratto con la Sony, pensate, è una cosa incredibile. Eccola. Senti, tu hai iniziato quindi come cantante, poi a un certo punto hai capito che invece forse era meglio soltanto scrivere. È stata una virata spontanea, ho iniziato a lavorare nel team di Roberto Casalino, che è uno degli autori più quotati, diciamo, della nuova generazione. Da lì, canzone dopo canzone, abbiamo capito che comunque la strada più giusta era quella, e così mi ritrovo a fare questo mestiere così bello, divertente e affascinante, che è l'autore di canzoni. Senti, ti faccio risentire l'annuncio dell'altra sera in cui sul palco di Sanremo chiamano la tua canzone. Di Nicolò Verrienti e Carlo Verrienti, Nessun posto è casa mia. Dirige l'orchestra il maestro Mauro Pagani. Canta Chiara. La canzone l'hai scritta con tuo fratello, ma sul palco c'è Chiara. I cantautori restano dietro le quinte e il pubblico, diciamo la verità, si concentra di più sull'interprete. Tu come la vivi questa cosa? La vivo bene, perché noi senza interpreti, insomma, non potremmo portare, ecco, alla ribalta le nostre canzoni. Il mio ruolo, diciamo, è dietro le quinte. Poi chiaramente i fan dell'artista hanno voglia di scoprire chi ha lavorato al brano, quindi poi ti scrivono, ti fa molto piacere ricevere degli apprezzamenti. Gli autori ultimamente godono anche di una buona luce, perché in realtà il ruolo dell'autore è tornato abbastanza in luce grazie proprio a Italia. Mi dici tre canzoni così a bruciapelo che non hai scritto tu ma che avresti voluto scrivere? De Gregori, La valigia e l'attore, per me è proprio un manifesto. Sì. Amo molto i Tiro Mancino, ne ho diverse di Tiro Mancino. La descrizione di un attimo anche per me è importante ed è adorabile. E la terza? Nella generazione più nuova, A te, Jovanotti, una canzone semplice che arriva al cuore come poche. Sei romantico? Beh, un po' sì, dai. Senti, facendo qualsiasi tipo di gesto scaramantico, se dovessi vincere Sanremo, cosa faresti dopo? Non ci ho proprio pensato, mi farei una super vacanza, perché è stato un lavoro, un periodo veramente intenso. Cravetto, è molto interessante, ma vero, meglio scrivere che cantare. Ma era stonato? Mi sa di sì. Ah, ecco. Però tu preferiresti cantare o scrivere? Ma nel mio caso, guarda, sì, il meglio è ascoltarle. Italia sì, Italia no, Italia boom, la strage impunita, puoi dir di sì, puoi dir di no, ma questa è la vita. Questa è la vita, Frankie Schipani, che porta in dono la terra dei cachi di Elio. Buongiorno Frankie. Ciao Ale. Buongiorno. Ciao Ale. Elio, le storie tese, arrivati secondi quell'anno nel 1996 a Sanremo, però si dice, leggenda metropolitana, polemiche, non ci facciamo mancare sempre niente a Sanremo, che fossero addirittura arrivati i primi. Sono poi intervenuti i carabinieri addirittura a leggere, come si dice, a contare i voti, e pare che avessero vinto. Che avessero più voti, però sono arrivati secondi. La storia dice che sono secondi. Secondi. Una cosa da dire è che erano molto più allegri. Ma erano stupendi. No, erano stupendi. Io consiglio a chiunque di ascoltare Amore Amorissimo di Elio. Meraviglioso. È meravigliosa, è bellissima. Ma noi adesso ce ne andiamo nel 1996 con Frankie Schipani, salutiamo quindi la nostra Alessandra Cravetto. Grazie, ciao. Ciao Ale. Ciao. 1996. Sei pronto allora, Frankie? 1996, subito dopo la pubblicità. Yeah. Let's go.